Stare a fianco a te, wow, e di fermare il tempo, sì. Sfogare la mia addiction. Per come muovi i fianchi sono un junkie, uh-huh. Per questo soddisfarti è la mia mission. Perché tu sei il blunt, io sono la guida che ti riempie. Appoggio le dita sulle tue tempie. Sono assuefatto, sono dipendente. Chiudiamo le tende, io sono il plettro, tu le corde della Fender. La visa che ti stende, tequila che ti scende. Baby sono addicted e si sente, wow. Volo sopra tutta la città, notte clandestine. Dead.